ottimo inizio quello di quest'oggi, visto che c'erano con noi Beastie Boys con questa Sabotage. Tra l'altro non so se vi ricordate il video di questa canzone, era qualcosa di eccezionale. Io ho sempre amato i Beastie Boys fin dall'inizio della loro carriera, quando erano decisamente più rock. Poi nel corso degli anni comunque hanno sperimentato, hanno fatto veramente un sacco di cose. Io li reputo assolutamente dei grandi. Abbiamo iniziato con loro quest'oggi le 12:03, ben trovati su Rock FM insieme a Claudia. Questa è la novità insomma di questa settimana. Come ben sapete, con Mox abbiamo fatto cambio, mezzogiorno 14 Claudia appunto, e la sera dalle 21 alle 23 il buon Mox, che è molto soddisfatto della fascia serale, è felice dell'interazione con gli ascoltatori, quindi ottima scelta in questo caso. Ringrazio Marco Gravelli che ci ha tenuto, che vi ha tenuto compagnia. Stavo dicendo con Arden Devi, no, però iniziavo di solito con questi ringraziamenti la sera, perché adesso trasmetto dopo Marco, la sera trasmettevo dopo Arden Devi, quindi sempre dopo il nostro Marco Antonio Gravelli. Ricordo subito i nostri contatti, allora 335-100-7777 per mandare i vostri sms. Per quanto riguarda le mail, e attenzione perché abbiamo un nuovo indirizzo ormai da qualche settimana, claudia@rockfamily.it. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized, folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises, before you tell yourself it's just a different scene. Remember, it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass, don't know how much time is best. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time is best. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And if the stars, the stars that shine for you. And if the stars, the stars that lie to you. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your successo per la seconda band di Corey Taylor, e stiamo parlando degli Stone Sour. Stavo dicendo grande successo grazie al secondo album intitolato Come Whatever May, ma soprattutto grazie anche a questo bellissimo singolo Progress. E Corey Taylor, come ben sapete, ora è in studio con gli Slipknot, stanno lavorando come dei matti per riuscire a pubblicare questo nuovo album durante l'estate, anche perché, ragazzi, se tutto va bene, poi a partire dal mese di settembre avranno anche diversi appuntamenti per quanto riguarda il live, quindi molti impegni per gli Slipknot. E sapete che quando si parla di Slipknot noi siamo molto felici. Allora, un po' di saluti, un po' di messaggi arrivati al 335 100 7777. Saluto allora la quinta elementare della insegnante di inglese Deborah di Lucca. Quinta elementare, ma siete piccolissimi, siete dei bimbi. Dice: noi vi ascoltiamo sempre quando facciamo lezione, ci saluti. Ma assolutamente sì. Che bello, un bacio veramente grande. Dice: viva Sant'Anna, la nostra maestra ti ascoltava sempre la sera. E adesso si becca Mox, che con l'inglese comunque è bravissimo, Saluto anche Max da Fucecchio, dice: grazie per i Beastie Boys, era un sacco che non li ascoltavo. Saluto Yaga, dice: PS, devo sapere, secondo te rompersi una costola saltando con gli sci sul ghiaccio è da pirla o è rock? Yaga, è assolutamente rock. Allora, io divido, perché io sono quella che cade sempre, quindi io divido i voli in due categorie: quello da sfigato, quindi cammini per strada, boom, e inciampi, da sfigato. Quello, stai zitto, io cado sempre, quindi mi rialzo nel tempo di 2-3 secondi, faccio finta di niente e vado avanti, perché io inciampo in qualsiasi cosa, sono distratta come poche, ho un pessimo rapporto con gli scalini. Però, ad esempio, Yaga, la primissima volta che sono andata a fare snowboard, sono tornata a casa con 20.000 lividi. Sono caduta addosso a un ragazzo, beccato in pieno la sua tavola sulle tibie, proprio bam! Quindi ho rischiato anche i punti, avevo i pantaloni pieni di sangue, sono tornata a casa a pezzi. Però rock, ero troppo felice. E ho fatto 1.000 foto, le mie cicatrici, ai tagli, ai lividi, perché insomma, dai, sei caduto, ok, però mentre facevi un'attività sportiva, sono cose che capitano, non è che stavi facendo gradini e op, quello sarebbe stato peggio, quindi sei assolutamente rock, fidati. Rock è lui, Dave Grohl, numero uno. Sono i Foo Fighters, questa è Long Road to Ruin. giorni stavo leggendo un bellissimo articolo su una rivista dedicata proprio a Dave Grohl. Si parla ovviamente dell'inizio della sua carriera con Nirvana, la sua storia, il suo rapporto difficile però molto bello con Kurt Cobain. Leggevo anche che Dave Grohl dice: la cosa più bella del mondo è suonare con i Foo Fighters dopo essere ovviamente un attore porno. Grande Dave Grohl. E poi ha un piccolo sogno nel cassetto, perché lui, come ben sapete, all'inizio, ma proprio all'inizio della sua carriera, prima ancora di Nirvana, lui suonava in una band, Scream, e ha abbracciato diversi generi musicali, dall'hardcore alle robe pesantissime. Infatti, ad esempio, nel progetto Probot collabora con Lemmy, collabora con un sacco di artisti che non c'entrano molto con il sound dei Foo Fighters, perché Dave Grohl ama le cose, quelle belle pese, quelle anche estreme, ovviamente a livello musicale. E quindi è un personaggio che è amato da tutti, da quelli che amano rock tranquillo, da quelli che amano le cose un po' più pesanti, appunto perché sanno le influenze di Dave Grohl. E Dave Grohl, proprio all'inizio della sua carriera, aveva suonato in Italia con la sua band, gli Scream, al Leoncavallo di Milano, e dice: ho un piccolo sogno nel cassetto, un giorno mi piacerebbe tornare proprio a Milano e suonare con i Foo Fighters al Leoncavallo. Però penso che questa cosa ora sia abbastanza difficile, chissà se riuscirà a fare questa cosa. Vedremo. Comunque, grandissimo Dave Grohl, un video meraviglioso quello di Long Road to Ruin. Poi lui ha sempre questa faccia da ebete, ma bello. Adesso vi lascio invece con Sioux and Bench and the Benches, questa Candyman. l'ultimo album dei Subsonica, questo è stato tra l'altro il primissimo singolo, allora Subsonica con La Glaciazione. Saluto allora Marcello e anche le sue bimbe. Ho letto la tua mail, sì, dice mi mancherai da morire, guarda caro Marcello, anche noi mancheranno tantissimo i nostri ascoltatori, ed è per quello che fortunatamente esiste questo sito meraviglioso che è rockfamily.it, dove rimane una grandissima interazione, un grandissimo rapporto, una bellissima famiglia. Quindi se non l'avete ancora fatto, mannaggia, andate subito su www.rockfamily.it, ci sono un sacco di cose molto interessanti da leggere, c'è anche un forum molto attivo e insomma andateci, fatevi un bel il giro. Saluto anche Teti, dice Clama è più rock cadere col vassoio del pranzo alla mensa di una famosa ditta fashion davanti a circa 200 persone, oppure al bancomat davanti alla fila di gente che aspetta il tuo turno. Secondo me è più rock assolutamente col vassoio, perché il vassoio in mano cosa fai? Boom, lo molli. Tu sì che sei rock, vedi Teti? Brava, hai tutto il mio supporto, la mia stima e la mia comprensione. Poi saluto anche Francesco 1380 da Forlì, dice aspetto sempre Mox perché dimentico del cambio, ma vado bene lo stesso perché la tua voce mi calma dopo mezz'ora? Non so, mezzo di lavoro. Ok. Comunque saluto anche Patrizio, un bacione, saluto anche Sergio da Genova, salutiamo anche Checco da Pisa, batterista, stai tranquillo perché il nuovo singolo dei Motley passerà assolutamente nel corso di queste due ore, anche perché è una bella novità, ci teniamo un sacco, quindi tranquillo che avrai modo di ascoltare The Saints of Los Angeles. Intanto invece vi faccio ascoltare una cover molto carina. Come ben sapete io adoro la voce del cantante di Killswitch Engage, che insieme ripropongono la cover di Holy Diver. non è facile fare una cover quando insomma hai a che fare con una grandissima voce come quella di Ronnie James Dio, però i Kiss Fish Engage ci sono riusciti. Allora questa era Holy Diver. Vorrei dedicare questa canzone al buon Mox, oggi è il suo compleanno, caro, non so se sia all'ascolto, comunque tantissimi auguri, noi ti vogliamo bene perché sei proprio un Mox, sei proprio un Mox, ma tu sei bello così con le tue camicie da donna e noi ti vogliamo tantissimo bene soprattutto per questo. Tantissimi auguri, un bacione. Ora c'è una piccola pausa, tra pochissimo gli Offspring.